professor Gianmaria Paranini ci parlerà appunto di un altro di queste reti dell'esercizio del potere e della sovranità, il principe vescovo e le regole dei comuni rurali. Utilizzare insegna qui storia medievale, non voglio illustrare la sua competenza, in particolare le sue opere sul territorio veronese, l'organizzazione territoriale del distretto veronese nel Medioevo e tanti altri sondaggi, voglio solo dire questo, insomma, ecco, che a lui dobbiamo, insieme anche al professor Castagnetti che è qui presente e che ringrazio per la sua presenza, proprio direi l'inizio di una rottura veramente in profondità delle fonti medievali trentine, a rottura che credo sia una delle speranze fondamentali appunto per un salto in avanti di tutti i nostri studi. La parola al professor Paranini. Utilizzare una delle chiavi possibili per leggere il rapporto fra il vescovo Inderbach e le comunità e le istituzioni rurali del territorio principesco, vale a dire appunto il rapporto istituito con essi attraverso lo strumento normativo costituito da regole e statuti rurali, è un compito per più versi difficile. Si tratta infatti di accertare se esiste un atteggiamento o una linea di comportamento che caratterizzi in qualche modo una scelta del vescovo Inderbach e o dei suoi collaboratori nel campo della revisione dell'approvazione di una normativa, nel campo della revisione dell'approvazione della modifica di una normativa che inerisce non solo alla vita interna delle comunità rurali trentine, ma anche, il collegamento avviene di necessità, alle relazioni istituzionali, economiche e fiscali con il principe vescovo e con i titolari dei diritti signorili. Il principe vescovo di Trento, il quale spettava in linea di principio la qualifica di regolanus maior e di conseguenza la tutela e il diritto di approbatio della normativa statutaria rurale, e spettava quindi l'autorità di confermare le regole, il principe vescovo di Trento ereditava al riguardo, nel periodo che ci interessa nel 400, una situazione segnata certamente dall'esistenza di alcune grosse realtà di valle che avevano margini abbastanza larghi di autonomia interna e un rapporto sostanzialmente senza mediazioni col principe vescovo e coi suoi rappresentanti locali, ma anche e soprattutto ereditava una situazione segnata dalla presenza di numerose famiglie signorili cui questi diritti erano stati in un processo ultrasecolare in molti casi infeudati. Non a caso non esiste nell'archivio del principato vescovile una tipologia documentaria ad hoc, non esiste nulla di simile a quelle raccolte di regole rurali che troviamo in archivi signorili come il noto regolanarium di Castel Brager dei Conti Thun, e questo per l'ovvio motivo perché l'espropriazione, la concessione da parte del principe vescovo di questi diritti precede la redazione per iscritto delle consuetudines. E del resto va osservato in generale che i ritmi di stesura per iscritto e di modificazione della normativa consuetudinaria rurale, in assenza di contenzioso, possono essere particolarmente lenti e diluiti, e soprattutto in una situazione come quella trentina. Al riguardo, un confronto, sia pur sommarissimo, fra la situazione trentina e gli addensamenti cronologici della produzione di norme statutarie rurali rilevabili in altri territori dell'Italia padana e anche dell'Italia montano-alpina, è molto significativo, perché evidentemente in molte zone il processo di comitatinanza e la stretta del controllo che il comune urbano impone a far scoppiare le contraddizioni di un rapporto via via più precario fra signori rurali e comunità e a rendere frequenti nel 200 e nel 300 l'elaborazione scritta di normative consuetudinarie rurali. Tutto questo a Trento, città senza contado, non accade e la redazione per iscritto di queste norme è in linea di massima più tarda, può inoltre essere influenzata non solo dal modificarsi di rapporti istituzionali, ma anche da processi di lungo periodo, come una più capillare diffusione del notariato e della cultura scritta, sicché anche la maggior eventuale frequenza di una produzione di queste norme in un breve periodo, come quello del ventennio inderbachiano, può in sé e per sé non essere significativa. Assieme alla varietà delle situazioni istituzionali alle quali facevo cenno e a queste modalità di produzione della documentazione, vi sono dunque degli obiettivi limiti della fonte della quale ci occupiamo, se noi la interroghiamo per chiarire se nell'azione del principe vescovo prevalga l'accettazione passiva tra latizia di equilibri e di norme ereditati dai predecessori, in teoria la conferma doveva avvenire con ogni nuovo vescovo, oppure se lo Inderbach manifesti in questo settore qualche elemento di novità, affiancando questi elementi di novità all'incisività delle sue scelte in materia di governo ecclesiastico, delle quali sentiremo parlare in questi giorni, scelte che hanno come referente principale, tra gli altri, proprio le comunità rurali e le loro parrocchie. Per chiarire questo problema e per mettersi quindi appunto nell'ottica giusta per intendere il rapporto fra lo Inderbach e questa normativa, occorre dunque, da un lato, porsi in una prospettiva diversa, anche se complementare, rispetto a quella che il forte interesse tuttora operante nella ricerca storica trentina privilegia circa le regole e gli statuti rurali. Gli statuti rurali e le regole sono infatti talvolta ancora intesi come strumenti di autogoverno comunitario, sostanzialmente prescindenti da autorità e poteri esterni. E questo è evidentemente un approccio legittimo e utile per certi aspetti, come per lo studio sul lunghissimo periodo della gestione delle risorse naturali del territorio, il pascolo o il bosco, entro quei margini di effettiva autonomia che le comunità rurali conservano sotto questo profilo. E non sono il solo io, naturalmente, a sottolineare la necessità di una continua contestualizzazione della produzione delle norme rurali con la realtà complessiva dello Stato e quindi la necessità di integrare la prospettiva alla quale ho fatto cenno con altre prospettive. Il Nequirito, che ha curato di recente un importante repertorio bibliografico delle carte di regola trentine, ha sottolineato egli stesso non solo e ovviamente l'interferenza di altri poteri nella produzione di queste norme, si tratti del principe vescovo o dei signori, ma anche la stessa inadeguatezza teorica della gloriosa denominazione di carta di regola, visto che, osservando in concreto la documentazione, la cosiddetta materia regolanare, autogoverno della comunità e del territorio, gestione dei beni comuni, si intreccia e si complica, spesso convivendo per giusta posizione, con la normativa civile e criminale, nonché con la materia estimale e fiscale. Tanto che nelle fonti compaiono bene spesso non solo termini come carta di regola, ma anche termini più complessi che rinviano ad una realtà più complessa come statuta ordinamenta, e tanto che si può porre il problema dell'abbandono di questa denominazione appunto tradizionale di carte di regola. Occorre dunque, come dicevo, integrare questa prospettiva di indagine con una prospettiva che più direttamente miri a contestualizzare la produzione delle norme statutarie nel contesto appunto delle istituzioni del Principato Vescovile, e dall'altro lato occorre approfondire sempre di più e sempre meglio la ricerca sull'assetto economico e sociale delle campagne trentine nel 400, studiare quindi l'assetto interno delle comunità sfuggendo a quelle tentazioni antropologistiche che purtroppo percorrono anche la più aggiornata ricerca sulle comunità rurali, e ampliare quelle ricerche che, sollecitate prevalentemente dall'interesse per il noto episodio di sollevazione delle valli di Non e di Sole del 1477, lasciano in oscuro per il complesso delle campagne trentine molti aspetti essenziali, al di là di specifici settori come quello minerario, problemi come la demografia e la mobilità delle popolazioni rurali, le tendenze di fondo dell'economia agraria, l'esistenza di industrie rurali che possono dare un volto a queste comunità rurali devono ancora essere oggetto di indagine. C'è dunque un complesso lavoro nel quale queste mie annotazioni sulle comunità rurali trentine e sul rapporto del principe vescovo con esse devono essere inserite. E venendo al punto, dopo questa lunga serie di necessarie precisazioni preliminari, un primo aspetto da prendere in considerazione è la valutazione che Inderbach dà nella sua presa di contatto con l'assetto istituzionale del Principato Vescovile della situazione pregressa. In quale atteggiamento egli si pone circa il governo del territorio? Psicologicamente orientato com'è, mi pare lo si deducesse anche dalla prolusione del professor Strnad, psicologicamente orientato com'è a risiedere a Trento e ad occuparsi a fondo del suo principato e della sua chiesa, ma anche pesantemente condizionato dal punto di vista politico, come ci ha confermato Riedmann poco fa. Come è noto e come altri in questo convegno ha documentato per altri aspetti, interessanti spunti in questa direzione, nella chiarificazione di quello che è l'atteggiamento mentale, l'approccio di Inderbach verso il problema del governo del territorio, possono venire dall'analisi delle annotazioni manoscritte apposte dal vescovo Assiano sui registri compilati dai suoi predecessori. Inderbach, verosimilmente e in parte sicuramente all'inizio del suo episcopato, entra in contatto con la situazione amministrativa precedente attraverso il materiale archivistico. Prese visione dei libri feudorum relativi ai suoi predecessori Giorgio Hack, Alessandro di Mazovia, Giorgio di Liechtenstein e Alberto di Ortenburg, e come rese noto già molti anni fa Voltellini, ebbe fra le mani anche il Codex Vangianus, al quale forse allude con l'addizione antichi registri ecclesie. Già questo risalire all'indietro per un periodo abbastanza lungo è indicativo di una volontà di definire, di assodare in linea di principio iura e prerogative della Chiesa trentina. È un'operazione che, come suo solito, lo stimola ad osservazioni penetranti, con punte scopertamente critiche per alcune improvvide iniziative dei predecessori, ad esempio Alessandro di Mazovia, del quale si dice deceptus et circumventus, da Giovanni, ad esempio da Giovanni Castelbarco in occasione di una investitura feudale a lui conferita, e nei confronti di Giorgio Hack, il quale adotta, a dire dello Hinderbach, clausole contra stilum ecclesiae nel caso di investiture decimali effettuate a comunità del territorio. L'habitus mentale che emerge è naturalmente quello del difensore rigoroso e del restauratore degli iura ecclesia, un difensore assai attrezzato dal punto di vista dottrinale e teorico, come ben sappiamo dalle relazioni di questi giorni, in grado di valutare gli scarti rispetto alle consuetudini, in grado di deprecare eccessive generalità di clausole nelle redazioni degli atti, tali da costituire grimaldelli per usurpazioni e così via. Annotazioni come clausula generalis, clausula contra stilum, dura clausula, nec ponatur amplius e simili si ripetono appunto in queste glosse marginali al registro di feudi, soprattutto di Giorgio Hack. Dura clausula, nec ponatur amplius, dunque si pensava di poter operare in futuro proprio su queste clausole. La difesa non solo delle temporalità episcopali residue, ma anche più in generale e in astratto degli iura ecclesiae, con rispetto sempre e comunque delle forme giuridiche e con una indubbia ricaduta positiva anche su aspetti più strettamente ecclesiastici, non è d'altra parte esclusiva dello Inderbach, ma è più in generale, potremmo dire, un segno dei tempi. A questi orientamenti il vescovo trentino è portato da esperienze ben note della sua formazione culturale e fra le altre circostanze non mi sembra fuori luogo ricordare che alcuni prestigiosi vescovi veneti, formatisi come lui e con lui all'Università di Padova, hanno in circostanze simili un atteggiamento simile. Così Ermolao Barbaro, vescovo di Verona, che del resto carteggia con lo Inderbach a proposito di problemi di confine fra le due diocesi, mostrando consonanza di intenti e di idee non solo sotto il profilo pastorale, ma anche per quello che riguarda i rapporti con le comunità rurali della Val d'Adige e le investiture di decima effettuate alle stesse. C'è Certo che rispetto a queste altre situazioni il puntiglio del principe e vescovo ha ben maggiore spazio a cui applicarsi, in confronto appunto della pur importante materia decimale e delle modeste temporalità episcopali residue dei quali disponevano i vescovi veneti e altri vescovi dell'Italia centro-settentrionale. Parecchie annotazioni dello Hinderbach al registro dei feudi di Giorgio Hack riguardano la materia feudale della quale ci ha parlato Bella Barba, materia nella quale lo Hinderbach introduce importanti novità, come sappiamo, come quella di una più precisa definizione giuridica dello status della nobiltà gentile e di un potenziamento della stessa nobiltà gentile, come del resto aveva reso già noto il Gerola in un articolo di molti decenni fa. Ricordo questa circostanza, ricordo appunto la materia feudale, perché il contratto feudale è assai spesso usato dai predecessori dello Hinderbach anche nei rapporti con le comunità rurali, come del resto è ovvio, per materie come quella decimale. E anche questi contratti offrono al vescovo lo spunto per annotazioni che prefigurano una linea di comportamento. C'è una volontà precisa di marcare una differenza rispetto alla prassi dei predecessori. Il timore che il rapporto con una collettività messa in questione gli iura ecclesie emerge per esempio dalle annotazioni apposte ad una investitura decimale ad una comunità, laddove si annota ad una investitura dello HAC, rinnovata per nos, set in alia forma, non pro comunitate, nisi quo ad privilegia comunia, set pro possessionibus et pecis pro singulis possessionibus per sé, ita ut sit locus devoluzioni, preservando quindi la possibilità di una devoluzione e di un'appropriazione alla mensa episcopale dei beni dei singoli. La stessa soluzione tecnica è proposta per un'investitura concessa alla comunità di Quetta in Val di Non, ove si osserva renovetur prorata sive per sé offrire una resistenza maggiore, da evitarsi per quanto possibile, alla tutela stretta degli iura ecclesie. Altrove emerge poi la constatazione di un venir meno delle antiche consuetudines, come nel caso dell'esistenza di una fortezza all'interno del castello di Mezzo Corona, contra pacta, et quod peius est non reconoscitur in feudum ab ecclesia. Il vulnus formale, quindi, il mancato riferimento di principio all'autorità del principe vescovo, è considerato più grave dell'infrazione sostanziale al pactum. Ancora, la major specificatio fa da criterio guida in diversi rinnovi di investiture decimali a favore di comunità, e un ultimo esempio della consapevolezza dei limiti che Hinderbach prontamente coglie dell'autorità episcopale nei confronti di alcune realtà del territorio, si ha nelle annotazioni apposte alla trascrizione dei patti gebardini del 1111, i patti che regolavano i rapporti fra la Val di Fiemme e il principe vescovo. Questi patti, annotati probabilmente dallo Hinderbach prima della conferma del 1469, ricevono annotazioni puntuali laddove all'intestazione investitura lo Hinderbach osserva imo iura et privilegia, rimarcando poi la qualità negletta di dominus et habens merum et mixtum imperium in dicta valle et hominibus che doveva pur sempre essere conservata dal vescovo. Sospettoso e cauto si mostra infine lo Hinderbach anche nei confronti delle valli giudicarie, osservando ai capitoli presentati nel 1451 a Giorgio Hack l'indeterminatezza della riduzione delle collette accordata da quel vescovo, non dicit quid vel quantum, il fatto che alcune concessioni non obbligant successorem e la bona clausola che subordinava invece la conferma di tre dei capitoli richiesti alla fedeltà alla Chiesa trentina. Donec et quousque homines dictarum communitatum in vera obbedientia et fidelitate nostra prestiterint. Si potrebbe continuare con questa già troppo lunga esemplificazione, ma l'impressione è in sostanza quella di una attenta filologia, di un prendere atto di una situazione concreta, non sentita peraltro in tutto come irreversibile, almeno per certi aspetti marginali, anche se non c'è un solo spunto di contestazione, un solo riferimento più in generale in queste annotazioni ai rapporti con le autorità, tirolesi. Un conto certo è manifestare la consapevolezza delle prerogative episcopali sulla carta, in questa che è pur sempre un esercizio di scrittura dello Hinderbach. Altro discorso sono evidentemente i reali margini di manovra che il principe vescovo, nella stringente situazione politica del momento, poteva avere. Peraltro non è azzardato, come già si accennava, vedere anche nel concreto qualche elemento di novità rispetto al passato recente nell'approccio di Hinderbach al problema dei rapporti con le comunità, rurali. Una sua generale volontà di dar maggiore concretezza all'attività amministrativa si legge intanto indirettamente nello stesso aumento della documentazione di cancelleria e di amministrazione che caratterizza la sua attività di governo, nella sua volontà di tutto controllare e di tutto vistare, dettando in prima persona le tracce per la corrispondenza dei suoi cancellieri, corrispondenza con le comunità rurali, ma anche ovviamente con altri enti e con altre persone, anche se ovviamente occorrerebbero ricerche specifiche per dare un'immagine più precisa di questa crescita burocratica. E direi proprio, anzi, che è proprio questa ordinaria amministrazione dell'attività di governo dello Hinderbach ad avere bisogno di maggiori attenzioni da parte dei ricercatori. Qui però ci interessa in particolare l'intervento sulle realtà istituzionali di periferia e, come accennavo, esaminando caso per caso le diverse situazioni si possono cogliere tracce interessanti. Esaminiamo allora innanzitutto la significativa coincidenza che per tre delle principali realtà territoriali del Principato cada proprio nell'Episcopato Hinderbach una svolta importante della storia istituzionale e statutaria. Si tratta delle valli di Non e di Sole, della valle di Fiemme, delle valli giudicarie. Mi soffermo rapidamente sulle prime, segnate come si sa da una situazione estremamente complessa di compresenza fra componente signorile di estrazione o di origine o di afferenza tirolese e di funzionari vescovili. I privilegi delle valli vengono rinnovati e ampliati nel 1477 sotto la pressione del malcontento che doveva di lì a poco sfociare in una aperta rivolta. È un episodio, come ben si sa, al centro oggi di diverse ricerche, fra le quali un'importante tesi di laurea di Fabrizio Chiarotti discussa a Venezia, che del resto è oggetto anche di una relazione che ascolteremo oggi. Per cui non spetta a me porre in rilievo la dinamica economica e sociale che fa da sfondo a questo episodio. Mi limito a osservare che non è certo un caso come negli anni 70 in quest'area si addensino cronologicamente le redazioni di diverse carte di regola, Tavon, Coredos, Maranos, Fruz, eccetera. E le tensioni interne, la presenza di un'autorità incisiva e formalmente agguerrita come quello dello Hinderbach sembrano perciò stimolare in modo particolare anche le forze locali a mettere per iscritto, a definire, a formalizzare. E che lo Hinderbach fosse mosso da un certo intransigente formalismo e che guardasse con forte interesse alla normativa statutaria rurale come ad uno strumento di definizione della propria sovranità, e poi dimostrato dalla controversia di qualche anno precedente al 1477 relativa allo ius regulandi sulla villa di Tres, o meglio relativa alla designazione del regolano maggiore che spettava per consuetudine alla comunità e che invece viene rivendicato dal vescovo in quanto feudo devoluto alla chiesa trentina dopo la morte del castellano Antonio da Coredo. Dice ad nos dicebamus pertinere et cui vellemus e andem committere posse neque licere aut liquisse eis aut alis subditis nostris uiusma di regula absque speciali autoritate et licentia nostra tamquam domini et superiores confirmare. Certamente furono altre le cause che portarono alla rivolta. Questi sono indizi, sono sintomi di un malessere piuttosto che motivazioni reali. D'altra parte, nel 1477, certamente furono altre le cause che portarono a questa rivolta del 1477, e in primo luogo certamente la situazione e la pressione fiscale. Ma che lo Hinderbach avesse bene in mano e conoscesse a fondo la situazione e tentasse preventivamente di arginarne gli sviluppi è dimostrato dal fatto che fu il vescovo a far redigere egli stesso in Trento quei capitoli che modificavano il testo dei privilegi del predecessore nell'anno 1477. In una prima redazione, annotata di sua mano, si parla infatti di capitula ad instantiam hominum vallis agnanie et solis concepta et commessa, ut in libro statutorum vallis conscribi debeant, e vi è tutta una serie di interessanti modifiche testuali fra questa prima redazione conservataci del capitula e il testo definitivo, che è quello poi pubblicato dal Papa Leone e ben più favorevole ai valligiani, nonostante che l'atto di promulgazione asserisca questi privilegi, questi capitula, essere stati presentati dai valligiani. In realtà invece ci fu una mediazione e un'azione politica del vescovo Hinderbach preliminare alla stesura di questi patti. V'è dunque da parte del vescovo una matura considerazione e una profonda conoscenza della situazione locale. Per altri due territori, poi, non segnati da consistenti presenze signorili, si hanno, come accennavo, eventi altrettanto importanti. E lo Hinderbach si orienta chiaramente anche in questi contesti per la limitazione dell'autogoverno di valle. Nel 1480, senza che vi siano indizi di conflittualità particolare, cade infatti la redazione per iscritto in latino delle scarne consuetudini e del lungo elenco di beni comuni della Val di Fiemme, pervenutoci, come si sa, in una traduzione volgare di inizio Cinquecento sotto la dizione di Quadernollo. Annotando i privilegi della Val di Fiemme nella conferma dei suoi predecessori, il vescovo confrontava amaramente questa situazione con quella della Val di Non, osservando che tornerebbe buona nella Val di Non la clausola citata nelle investiture alla comunità fiemmazza: quod erunt fideles vassalli et conservabunt toto posse honorem ecclesiae tridentine. Ma se la conferma dei privilegi del 1480 non può in alcun modo essere ricondotta, perlomeno per quanto ne sappiamo, ad una iniziativa dello Hinderbach, quali fossero gli orientamenti del vescovo si vide l'anno successivo, quando lo Hinderbach tentò di sottrarre allo scario della valle, il principale funzionario dell'autogoverno della valle, tentò di sottrargli il privilegio di custodire le chiavi della prigione e tentò di sanare l'intollerabile situazione in forza della quale era lo scario stesso, quindi un esponente della comunità di valle, a stabilire se una causa dovesse essere portata al vicario vescovile. Videretur quod tu scarie esses superior vicario nostro, qui ibidem vice et nomine nostro justitiam administrat, argomenta lo Hinderbach. Nos abeamus a sancto romano imperio et jurisdictionem civilem et criminalem a quo talis superioritas dependet. Nelle valli giudicarie, poi, governate come si sa da capitani e vicari vescovili competenti in civile e distinte a metà 400 fra nelle due giurisdizioni delle giudicarie citeriori e ulteriori, per quanto riguarda le valli giudicarie, Hinderbach sviluppò poi, prima della conferma dei privilegi delle tre pievi esteriori del 1470, la consueta accurata analisi dei privilegi pregressi, i privilegi del 1407 ratificati da Giorgio II Hac, eccependo che in essi non si parlava del capitaniato, concesso poi nel 1451, contrapponendo il proprio orientamento a imporre un giusdicente forensis et jurisperitus sindacabile piuttosto che un locale, stigmatizzando l'eccessiva ampiezza delle esenzioni dalle factiones dei castelli, sottolineando l'illegittimità di concessioni che i suoi predecessori avevano fatto successoribus et perpetuo, mentre non avrebbero potuto farlo. Nel 1480 poi fu approvato, per espressa volontà del vescovo e per opera del suo giurista Calepino Calepini, fu approvata l'applicazione a Storo per Storo dello Statuto dei Sindaci del Comune di Trento, una normativa, come si sa, che fu largamente applicata nelle realtà del territorio trentino. Anche nel caso di queste valli, dunque, la materia giurisdizionale è presa in seria considerazione e dal complesso dei tre casi emerge la precisa volontà del Vescovo di porre argini e termini chiari nel suo rapporto istituzionale e giurisdizionale con queste tre realtà così importanti all'interno del territorio del Principato. Se questi sono dunque i principi secondo i quali il Vescovo si muove ed opera riguardo alle tre vallate, e se indubbiamente in termini generali noi dobbiamo riconoscere come la tendenza ad un riconoscimento formale degli istituti locali e nel contempo della lenta erosione dei margini di autogoverno sia un fenomeno di lunga durata, iniziato già nel 300 e proseguito poi nei secoli successivi, per quello e per quel poco che possiamo vedere è però poi più sfumata la concreta prassi messa in atto. Ancora una volta, l'area meglio servita dagli studi e dalla documentazione è la Valle di Non, per la quale il carteggio fra lo Hinderbach e il suo massaro Jacopo Roccabruna, immediatamente successivo alla promulgazione dei privilegi del 1477, mostra un atteggiamento molto morbido, un invito appunto al massaro a non fare rispettare neppure nella forma testé approvata, a non fare rispettare in modo rigido neppure nella forma testé approvata i privilegi del 1477, e quanto poi ai provvedimenti del 1481-82 presi per la Val di Fiemme, sembra certa la loro non applicazione. In realtà è evidente che anche per queste aree l'analisi delle tentate modifiche statutarie e istituzionali va contestualizzata, non potendo dare, disgiunta da un'analisi sociale, che indicazioni generiche e scarsamente significative. Di questa contestualizzazione un elemento importante dovrà essere un'analisi del riassetto del sistema amministrativo e fiscale dell'Episcopio, che è soggetto nel periodo di Episcopato Hinderbach a forti tensioni. Noi possiamo ritrovare nella documentazione modesti segnali dell'attenzione del Vescovo a questi aspetti. Le clausole, per esempio, volte a salvaguardare nel tempo il censo dovuto alla Camera Episcopale in taluni contratti stipulati con comunità, la tendenza a definire quantitativamente in cifre, onoranze e censi, oppure ancora provvedimenti come l'affidamento a Antonio Facini e Calapino Calapini, due giuristi, due uomini, due amministratori di fiducia dello Hinderbach, di compiti di controllo super non solvendis affictis a communitatibus, giacché i beni soggetti a censo sono venduti pro liberis et franchis, e via di questo passo. La conoscenza precisa della situazione da parte di questi funzionari, che devono appunto indagare sulla venditio pro liberis et franchis di questi censi, la conoscenza precisa della situazione è premessa alla recuperatio, e tutto lascia intravedere una precisa volontà di risistemazione patrimoniale e fiscale, i cui contraccolpi sul rapporto fra comunità e vescovo, sommati alla stretta giurisdizionale, potranno essere ricostruiti soltanto attraverso microanalisi locali. Ma non meno di questi episodi salienti e del rapporto con queste realtà di valle che costituivano un elemento importante e di crescente importanza nel quadro principato vescovile, e nei confronti del quale, ripeto, Hinderbach non può in più casi andare al di là di buone intenzioni o ha comunque dei margini piuttosto ristretti di manovra, non meno di questo, dicevo, va valutata la lunga serie di provvedimenti di minore rilievo, di ratifiche, di approvazioni di normativa localmente prodotta, che lo Hinderbach approva su sola sollecitazione, per quello che sappiamo, della periferia. Direi anzi che è solo questo sfondo, questo pulviscolo di provvedimenti che fa acquisire un senso agli orientamenti più impegnativi politicamente assunti verso le valli. Un tema che in questa documentazione minuta emerge in modo ripetitivo e che la ripetitività stessa porta ad individuare come importante nell'approvazione o nell'esame di normativa prodotta a Malocco, a Tenno, nella Pieve di Banale, eccetera. Un tema, fra l'altro, che lascia intravedere le profonde modificazioni in atto nelle società rurali delle valli trentine e che si ricollega ancora alla tematica fiscale, è quello della normativa sui pignoramenti dei debitori insolventi e sulle vendite coatte. Di esso, lo Hinderbach, approvando e ratificando i provvedimenti presi in sede locale, sottolinea il risvolto sulla solvibilità fiscale delle comunità medesime. Non per caso nel 1482, elaborando una sentenza arbitrale fra Stenico e Pinzolo per una delle eterne questioni dei pascoli sul monte Vallagola, aggiunge di sua iniziativa la gratuita osservazione che la proprietas e il directum dominium sul monte spettano alla Chiesa di Trento e che l'usufrutto e il gaudimentum sono concessi alle comunità ut collectas et alia onera et iura nobis et ecclesiae nostre per solvant. C'è quindi una precisa preoccupazione di carattere fiscale, della quale, come ripeto, io do qui soltanto i termini, che rappresenta obiettivamente uno dei buchi più grossi nella ricerca attuale. Un'altra linea non meno interessante, che sembra potersi individuare con sicurezza, è quella della non infrequente assunzione da parte del Vescovo di attive responsabilità di arbitrato nelle controversie fra le comunità, rivendicando la propria posizione tamquam dominus et superior et iudex ordinarius, non solo, ma anche talvolta in funzione arbitrale nel caso di controversie che coinvolgano anche comunità soggette a signori. La sentenza per Pascoli del 1471 fra Predazzo e la Val di Fiemme non è per esempio affidata al Consilium Sapientis, ma è elaborata in prima persona dal Vescovo, sia pure con il consiglio di non menzionati dottori, con estrema accuratezza. Dal Vescovo stesso, dicevo, che menziona gli statuti et ordinamenta spectantia ad dictam vallem flemarum, siamo prima dell'approvazione del 1480, l'anno della riscrittura di questi privilegi a cui ho fatto cenno, e menziona anche consilia et ordinationes, ai quali i predazzani, una delle parti in causa, partecipano, mostrando ancora una volta approfondita conoscenza della situazione locale. Anche affidando in un altro contesto a Jacopo de Tonno e Jacopo di Roccabruna, il massaro della Valle di Sole e della Val di Non, la decisione di una causa fra Monclassico e Roviana, lo Hinderbach si riserva uno spazio di personale arbitrio via intendimus ut super iis nobiscum concordent. Non sono rare, insomma, queste iniziative volte a creare un rapporto in un certo senso extra istituzionale con le comunità rurali, rapporto che confina e sconfina con quella fiducia che il Vescovo, non il Principe, mostrerà nei riguardi delle vicinie e delle comunità rurali, che sono anche comunità parrocchiali, per i problemi legati alla residenza dei pastori e al comportamento del clero. Sono cose delle quali ci parlerà domani la dottoressa Rando. Così come andrebbero censite gli spostamenti, le presenze fisiche dello Hinderbach nel territorio trentino, visto che in più di qualche occasione esce da Trento e si reca nel territorio. Ma la schedatura riguardo a questi interventi, appunto a interventi di questo tipo, andrà completata, forse anche, direi, soprattutto negli archivi locali. Ma c'è, concludendo, nell'attività di Hinderbach e verosimilmente in quella di chi collabora con lui, non scopro nulla ricordando quanto sia ricco, ben più che presso i suoi predecessori, l'entourage di giuristi e di funzionari, c'è, dicevo, nell'attività di Hinderbach la traccia di una volontà di ridefinizione istituzionale, di una tutela delle prerogative fiscali della Chiesa trentina e insomma la volontà di un mantenere vivo, al di là degli obblighi fiscali e del funzionamento dei meccanismi istituzionali, la volontà di mantenere il senso di un'autorità e di un prestigio. Sono scelte che lo qualificano rispetto ai predecessori e sono scelte che sono da valutare e da apprezzare soprattutto nel contesto politico complessivo nel quale il Vescovo si trova ad operare. In considerazione dei margini limitati che l'assetto istituzionale pregresso gli consentiva per un inquadramento e per un controllo della periferia, inquadramento e controllo della periferia, che solo entro coordinate larghissime può essere avvicinato ai parametri che operano in altri stati territoriali. Su questi limiti, sull'evoluzione complessiva che prendono le istituzioni del Principato, non spetta a me soffermarmi e neppure accennare. Da questo piccolo osservatorio risulta comunque confermata l'importanza della svolta costituita per lo stile del governo episcopale dall'episcopato Hinderbach, anche se restano ancora da chiarire molti tratti della sua azione. Così come è enigmatico quel pace sua leta per domuit populos che figura nell'epitafio del vescovo e che non so se si riferisca solo all'episodio del 1477 della Valle di Nonno.